ho una rivelazione da farvi in questo poco tempo che ci resta. Io non so cosa pensate voi del monumento al lago e al filo in piazzale Cadorna, ma a me, devo ammettere, non dispiace. Il monumento in sé, dico, non tutta la piazza. Penso anch'io che quelle tettoie verdi di fronte all'ingresso della stazione nord siano al tempo stesso fastidiose e banali. Ritengo, come voi tutti, che l'aver versato alla compagna Olenti tutti quei miliardi per averle progettate sia stato un dispendio criminale di pubblico denaro. Devo avervi già confidato in qualche sede il convincimento per cui la nostra città non ha tanto bisogno di opere d'abbellimento quanto di sostanziosi interventi in termini di vivibilità. Ma da questa giunta di narcisi e pavoni non si può pretendere altro, e quel lago e quel filo in sé proprio non riesco a farmi dispiacere. Forse è perché mi rallegro all'idea di un monumento che non sia dedicato una volta tanto a una strage o a un qualche eminente propugnatore della necessità di commetterla, ma che abbia come soggetto uno strumento di lavoro, un arnese mediante il quale uomini e donne si guadagnano onestamente la vita. O forse perché ogni volta che vedo un ago mi viene in mente come sia assai più probabile che un cammello passi per la sua cruna piuttosto che un ricco ponga piede in paradiso. Anche quell'ago, che pure ha ingrandito parecchie migliaia di volte rispetto ai modelli comunemente in uso, non è di misura tale da offrire un varco sicuro alle navi del deserto, e la sua presenza in piazza quindi dovrebbe valere da monito per tutti coloro che, pur esercitando senza scrupoli sugli altri il potere del soldo, si illudono di aver comunque il libero accesso nel regno dei cieli. Avete capito, suppongo, che non intendo invitarvi a un dibattito in materia d'estetica. È un tema questo al quale non sono qualificato, e oltretutto non credo che esista in materia una criteriologia abbastanza accettata perché valga la pena di discuterne. Ma è anche vero che dal punto di vista estetico quel monumento ha suscitato delle reazioni piuttosto decise. La maggior parte delle persone con cui ne ho parlato lo considerano, con licenza parlando, una boiata pazzesca, e ne lamentano con energia l'avvenuta installazione. Ed è strano, a pensarci bene, Milano, la nostra città, è piena di monumenti che per un motivo o per l'altro gridano vendetta al cielo, eppure non suscitano nel cittadino medio particolari reazioni di ripugnanza. Limitiamoci pure alle opere contemporanee, lasciamo da parte per comodità busti e statue del tardo Ottocento, anche se ce ne sarebbe da dire, ma ammetterete anche voi che non è facile trovare, con tutta la buona volontà del mondo, qualcosa che superi in bruttezza il monumento ai bersaglieri del Verziere o quello dei carabinieri in piazza Diaz. E provate a revocare alla mente, se ne avete cuore, quelle due graffette giganti in piazza della Conciliazione, o quella strana combinazione di cerchi e cunei metallici visibili dalle parti del palazzo della Triennale, e sarete d'accordo con me sul fatto che in nome dell'arte negli ultimi decenni si sono commessi più delitti a Milano di quanti ne siano stati commessi altrove in nome della libertà. Ma se nessuno protesta per il monumento ai bersaglieri e tutti si lamentano per lago e il filo, un motivo dovrà ben esserci. In parte perché ci si abitua a tutto, ovviamente. E in parte, suppongo, perché la maggior parte dei monumenti moderni tendono in un modo o nell'altro a non farsi notare. E si può percorrere più volte a piedi o in tram il tratto di strada tra Largo Augusto e Piazza Fontana senza accorgersi che in zona sorga monumento alcuno. E forse è meglio così. Lo stesso succede più o meno negli altri casi che vi ho citato. Nel loro grigiore uniforme, metallico e cementizio, quegli oggetti si confondono nell'uniforme grigiore del paesaggio. Nonostante la goffaggine delle forme che ostentano, forse proprio per quella, riescono misteriosamente a mimetizzarsi. L'occhio scivola su di loro e passa rapidamente altrove. Nessuno li percepisce per quel che sono e per quello che rappresentano, e nessuno quindi sente il bisogno di chiedersi quale sia il senso della loro presenza. E sono monumenti che, a onta della loro destinazione etimologica, che dovrebbe essere quella di ricordare qualcosa a qualcuno, non riescono a far ricordare neanche se stessi. E da questo punto di vista non sono né belli né brutti, sono semplicemente insignificanti e quindi tutto sommato innocui. Se non altro, lago di Oldenburg, sulla cui bellezza o bruttezza mi permetterete di non pronunciarmi, innocuo non è. E non soltanto perché ha colori, e noi i monumenti a colori non li concepiamo perché siamo abituati al bianco dei marmi e al grigio verde dei bronzi e diffidiamo da combinazioni più elaborate, questo è un problema di pigrizia intellettuale e basta. il fatto che nella sua stessa riconoscibilità quella cosa lì è dannatamente incongrua. È sicuramente un ago, non ci sono dubbi, e perché diavolo bisognerebbe mettere in piazza un ago gigante con il filo. Per celebrare il lavoro, dicevamo prima, usurpando in un certo senso il ruolo classico della falce e del martello, mi sembra improbabile, vista anche l'impostazione ideologica di chi ce l'ha fatto mettere. Per suscitare nei passanti pensieri riverenti sui cammelli e sul regno dei cieli? Ma anche questa è un'ipotesi sulla quale pochi si sentirebbero di scommettere. Allora perché? Probabilmente l'irritazione che quel monumento suscita nei più deriva proprio dal fatto che a quella legittima domanda non è facile dare risposta. Ma che volete che vi dica? Io sono sempre stato convinto che farsi delle domande sia sempre una pratica salutare. In una realtà urbana così poco stimolante, un oggetto che pone dei problemi, sia pure futili, dovrebbe essere sempre il benvenuto. Col tempo ci abitueremo anche alla sua presenza. Ma per ora godiamoci quel poco di inquietudine che ci porta.